Fulminati in azienda. Allora, Paragone, come sempre la seconda metà di giugno sarà infernale. Ci giochiamo buona parte delle vendite dell'anno. Lo so, e infatti la domanda è come fare ad essere efficaci in questo momento in cui ci giochiamo... Fermo. Posso concludere la frase io, che stamattina mi sento veggente. La buona parte delle vendite dell'anno? Mi hai tolto le parole di bocca. Esatto, perché sono veggente. Sì, ecco, quando avete finito di cazzeggiare, grazie, passiamo alle cose serie. Allora, come affrontiamo questi 15 giorni di fuoco? Marco, ci serve un'idea forte, ma non è che così su due piedi possiamo decidere sorti e strategie di vendita di un mese così cruciale? In effetti, Marco, Marta ha ragione, io non so se in un minuto noi Stop, possiamo... Stop, schedula, grazie, l'ha già detto lei, non ripetere. Quindi, cosa facciamo? Quindi, tu che faresti, Marco? Ma forse dovremmo fare una riunione seria, dico, dedicata al problema. Telefoni spenti e cervelli accesi, molto accesi. Super consulente, cosa ne pensi? Io dico che forse dovremmo fare una riunione... Fermo che continuo io. Dovremmo fare una riunione seria con telefoni spenti e cervelli accesi. Giusto? Stavi a dire questo? Giusto, centrifuga, giusto. Esatto. Hai la stoffa del consulente, non me ne ero mai accorto. Bene, bando alle ciance. Allora, dato che il tempo stringe e la prossima settimana dobbiamo essere operativi, ci vediamo lunedì sera, ore 19, qui nel mio ufficio. Domande, dubbi, obiezioni? Bene, grazie. Lo prendo come un silenzio assenzio. Abacco, per risollevare le sorti delle vendite disastrose, sul pezzo ha fissato una riunione lunedì sera, segnatela. Ma scusi, dottor, ma proprio lunedì? Sì, Bacco. Ma a me non servo, vero? Non sono utile. Certo che servi, c'è da fa? La so, perché lunedì è la partita dell'Italia dei mondiali, non volessi perderla. Ma che stai a scherzare? Sto lunedì, ma sei impazzito? Non me lasciano vedere i mondiali. Ho vissuto 4 anni per i mondiali. Do l'anima a st'azienda e ogni 4 anni mi devono lasciare vedere i mondiali. Se no, me licenzio. Avanti. Capo, scusa, ti disturbo, posso entrare? Certo, figurati se disturbi, ero qui ad aggiornare la mia pagina su Facebook. No, anche tu su Facebook. Ma sei scemo, è una battuta, no? Cosa faccio? Metto le foto e cerco gli amici. Dai, c'entri. Non mi dire che invece tu sei di quella tribù lì di Facebook. Beh, a dire la verità sì, cavo, non ce vado però mai. Non certo, mai. Dite tutti così voi. E poi siete lì ad aspettare gli amichetti che vi scrivono e che vi aggiornano la paginetta e vi mandano le foto della Corsica, dai. Vabbè, cavo, comunque non ero venuto per parlare di Facebook. E quindi qual è il problema stavolta? Il problema è che per riunione lunedì mi era venuta un'idea. Cioè? Ci potremmo vedere la mattina e non la sera, che la mente è fresca e vengo a vedere a pioggia, no? Che dici? Ma bravo centrifuga, finalmente ti trovo proattivo e con spirito d'iniziativa. Perfetto, allora manda tu una mail a tutti, convocazione alle 9 nel mio ufficio. Ok, e a che ora mettiamo che finimo la riunione? Ma non lo so, centri, non lo so, si inizia alle 9 e si va avanti ad libidum. Ma come ad libidum? A Marco, forse non ha realizzato che lunedì alle 20:30 gioca l'Italia. Ma uè? Ma siamo rincoglioniti, ma siamo pazziti tutti quanti, non riconosciamo quali sono le priorità delle persone. Sono iniziati i mondiali di calcio e nessuno me lo dice. NCSC, non ci siamo capiti. Allora, riunione annullata. Ubi Maior, minor cessa. Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z2O 1T.